Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha K. Milton-Knowles. Pippi va alla fiera. Nella piccola, piccola città era giorno di fiera. Era una fiera che si teneva una volta all'anno e quando arrivava tutti i bambini diventavano pazzi di gioia perché finalmente succedeva qualcosa di piacevole. Quel giorno la cittadina cambiava completamente aspetto. C'erano persone dappertutto, le bandiere erano issate, la piazza era piena di bancarelle dove si potevano comprare cose meravigliose. C'era un tale chiasso e una tale agitazione che era divertente anche solo camminare per strada. E la cosa più bella di tutte era un grande Luna Park, vicino all'ufficio doganale, con la giostra, il tiro a segno, il teatro e un sacco di altri divertimenti. E inoltre c'era un serraglio con tutti gli animali selvaggi possibili e immaginabili, tigri, serpenti giganti, scimmie e leoni marini. Da fuori si potevano sentire strani ringhi e ruggiti mai uditi prima e se si avevano i soldi, naturalmente, si poteva anche entrare a vederli oltre che sentirli. Dunque non c'era da meravigliarsi che la mattina della fiera il fiocco nei capelli di Annika tremasse per l'eccitazione quando era vestita e pronta per uscire o che Tommy avesse inghiottito in un sol boccone il suo panino al formaggio per la fretta. La mamma chiese ai bambini se non preferivano andare con lei alla fiera, ma Tommy e Annika risposero un po' imbarazzati che se lei non aveva niente in contrario, preferivano andarci con Pippi. «Perché, vedi», spiegò Tommy ad Annika mentre entravano correndo nel giardino di Villa Villa Colle, «io credo che succedano molte più cose divertenti quando c'è Pippi». Anche Annika la pensava così. Pippi li aspettava già pronta per uscire, in piedi, nel bel mezzo della cucina. Era finalmente riuscita a trovare il suo grande cappello di paglia dentro il cassone della legna. «Mi ero completamente dimenticata di averlo usato per portare la legna l'altro giorno», disse tirandosi giù il cappello sugli occhi. «Non sono deliziosa?» Tommy e Annika non potevano negarlo. Si era annerita le sopracciglia col carbone e dipinta di rosso la bocca e le unghie. Inoltre si era messa un bellissimo abito da sera che le arrivava fino ai piedi e aveva una scollatura sulla schiena da cui spuntava un corpetto rosso. Sotto il bordo della gonna si intravedevano le sue grosse scarpe nere, ancora più belle del solito perché vi avevano dato i fiocchi verdi delle grandi occasioni. «Credo che ci si debba vestire come una signora proprio per bene quando si va alla fiera», disse Pippi avanzando lungo la strada con tutta la grazia che era possibile avere indossando delle scarpe tanto grandi. Teneva l'orlo della gonna tra le dita e a intervalli regolari diceva con una voce completamente diversa dalla sua «Incantevole! Incantevole!» «Che cosa è incantevole?» chiese Tommy. «Io?» disse Pippi compiaciuta. Tommy e Annika pensavano che tutto fosse incantevole quando c'era la fiera. Era incantevole trovarsi nella calca per le strade e passare da una bancarella all'altra in piazza per guardare tutte le cose esposte sui banchi. Pippi comprò ad Annika una sciarpa di seta rossa, mentre a Tommy regalò il berretto con la visiera che aveva sempre desiderato, ma che la mamma non voleva che avesse. A un'altra bancarella, Pippi comprò due statuette di vetro a forma di campana piene di zuccherini bianchi e rosa. «Oh, come sei gentile, Pippi!» disse Annika abbracciando la sua statuetta di vetro. «Oh sì, incantevole!» disse Pippi prendendo tra le dita il bordo della gonna. Un fiume di persone scorreva verso l'ufficio doganale e Pippi, Tommy e Annika si unirono alla folla. «Che confusione!» esclamò Tommy entusiasta. Gli organetti suonavano, la giostra girava, la gente gridava e rideva. I giochi delle freccette e dei piatti da rompere erano in piena attività. Alle baracche del tiro a segno le persone si accalcavano per dimostrare la propria mira. «Questo vorrei guardarlo un po' più da vicino», disse Pippi, e trascinò Tommy e Annika davanti a un tiro a segno. In quel momento non c'era nessuno e la signora che consegnava il fucile e prendeva il denaro pareva di cattivo umore. Tre ragazzini non erano certo dei gran clienti, per cui non li degnò neanche di uno sguardo. Pippi guardava interessata il bersaglio, che consisteva in un grande pupazzo di cartone con un cappotto blu e una faccia perfettamente rotonda. Al centro della faccia aveva un grosso naso rosso. Era quello il bersaglio da colpire. Se non si riusciva a centrare il naso, bisognava almeno cercare di andarci vicino. Se non si colpiva la faccia, non valeva. Ben presto la signora cominciò a mostrarsi irritata per la presenza dei bambini. Voleva dei clienti che sapessero sparare e potessero pagare. «Siete ancora qui?» disse indispettita. «No», rispose Pippi seria. «Siamo seduti nella piazza grande a schiacciare le noci». «Che cosa avete da guardare?» brontolò la signora sempre più furiosa. «Aspettate che arrivi qualcuno a sparare?» «No», disse Pippi. «Aspettiamo che tu cominci a fare i salti mortali». Proprio in quell'istante arrivò un cliente, un signore distinto con una catena d'oro sulla pancia. Dopo aver preso un fucile e averlo soppesato nella mano, disse: «Si potrebbe anche sparare una serie di colpi, giusto per mostrare come si fa». Dopodiché si guardò intorno per vedere se ci fosse pubblico, ma non vide nessuno a parte Pippi, Tommy e Annika. «Guardate un po', bambini», disse, «così vi fate un'idea dell'arte del tiro al bersaglio. Si fa così». Alzò il fucile all'altezza della guancia e sparò il primo colpo. Bersaglio mancato. Secondo sparo, mancato di nuovo. Terzo e quarto, mancato e mancato. Il quinto tiro colpì il pupazzo di cartone sulla punta del mento. «Pessimo fucile», borbottò arrabbiato il distinto signore gettandolo via. Pippi lo prese e lo caricò. «Oh signore, com'è bravo», disse. «Un'altra volta farò proprio come ci ha insegnato, e non così». Bang, bang, bang, bang, bang. 5 tiri avevano colpito il pupazzo di cartone dritto sul naso. Pippi porse una moneta d'oro alla signora del tiro a segno e se ne andò. La giostra era così straordinaria che Tommy e Annika trattennero il respiro dalla meraviglia quando la videro. Si poteva montare su cavalli di legno neri, bianchi e marroni con la criniera vera. Sembravano quasi vivi e avevano pure la sella e le briglie. Si poteva scegliere il cavallo che si voleva. Pippi comprò i biglietti per un'intera moneta d'oro. Ne ricevette talmente tanti che quasi non stavano nel suo grande borsellino. «Se le avessi dato un'altra moneta d'oro, mi sa che mi avrebbero dato direttamente tutto il congegno, gira gira», disse a Tommy e Annika che la stavano aspettando. Tommy scelse un cavallo nero, mentre Annika ne prese uno bianco. Pippi sistemò il signor Nilsson su un cavallo nero che sembrava davvero selvaggio e lui cominciò subito a fare le pulci alla criniera. «Anche il signor Nilsson va sulla giostra», disse Annika sbalordita. «Certo che sì», rispose Pippi. «Se ci pensavo prima potevo portare anche il cavallo. Un po' di distrazione gli avrebbe fatto bene. E un cavallo che va a cavallo sarebbe stato un evento nel mondo dell'equitazione». Dal canto suo Pippi saltò in sella un cavallo marrone e un attimo dopo la giostra cominciò a girare mentre l'organetto suonava «Rammenti ancora il tempo della nostra infanzia con i suoi felici ricordi?». Andare sulla giostra era meraviglioso, su questo Tommy e Annika erano perfettamente d'accordo. Anche Pippi sembrava divertirsi. Stava in verticale sul cavallo con le gambe dritte in su. Il suo lungo abito da sera le era caduto sulla testa. La gente intorno alla giostra vedeva solo un corpetto rosso e un paio di pantaloncini verdi, e poi le lunghe gambe magre di Pippi con una calza marrone e una nera e le sue grandi scarpe nere che si muovevano avanti e indietro giocosamente. «Ecco come va sulla giostra una signora proprio per bene», disse Pippi alla fine del primo giro. I bambini rimasero sulla giostra per un'ora intera e alla fine a Pippi si incrociavano talmente tanto gli occhi che vedeva 3 giostre invece di una. «Oh, adesso è diventato difficile decidere su quale salire», disse. «Sarà meglio proseguire». Le erano restati una gran quantità di biglietti che diede ad alcuni bambini che stavano a guardare la giostra senza salirci, solo perché non avevano i soldi per pagare. Fuori da una tenda lì vicino, un uomo gridava: «Il nuovo spettacolo comincia tra 5 minuti! Entrate a vedere l'originale dramma L'assassino della contessa Aurora, ossia chi si nasconde tra i cespugli?» «Se c'è qualcuno che si nasconde tra i cespugli, dobbiamo scoprirlo e anche subito», disse Pippi a Tommy e Annika. «Venite che entriamo!» Pippi si presentò allo sportello per i biglietti. «Posso entrare a metà prezzo se prometto di guardare solo con un occhio?» chiese in un improvviso attacco di parsimonia. Ma la venditrice di biglietti non ne volle sapere. «Non vedo nessun cespuglio e neanche nessuno che si nasconde», disse Pippi imbronciata dopo che lei, Tommy e Annika ebbero preso posto in prima fila vicino al sipario. «Non è ancora iniziato», le spiegò Tommy. Proprio allora il sipario si alzò e apparve la contessa Aurora che camminava su e giù sul palco torcendosi le mani con un'espressione molto preoccupata. Pippi seguiva il tutto con grande interesse. «È decisamente triste», disse a Tommy e Annika. «Oppure ha una spilla d'avalia che la punge da qualche parte». Ma la contessa Aurora era triste. Alzò gli occhi al cielo e disse in tono lamentoso: «C'è qualcuno più infelice di me. Hanno preso i miei bambini. Mio marito è scomparso e io sono circondata da furfanti e banditi che vogliono uccidermi». «Oh, ma è terribile!» disse Pippi e gli occhi le divennero abbastanza rossi. «Vorrei essere già morta», gemette la contessa Aurora. A questo punto Pippi scoppiò in un impetuoso fiume di lacrime. «Per favore, non dire così», singhiozzò. «Magari le cose si sistemano. I bambini verranno certamente ritrovati e tu puoi trovarti un nuovo marito. Ci sono tanti di quegli uomini», continuò tra i singhiozzi. A questo punto però arrivò il direttore del teatro, lo stesso che prima gridava fuori dalla tenda, e disse a Pippi di stare zitta, altrimenti avrebbe dovuto lasciare il teatro all'istante. «Ci proverò», disse Pippi stropicciandosi gli occhi. Era uno spettacolo terribilmente emozionante. Tommy continuava a rigirarsi il berretto tra le mani per l'agitazione e Annika teneva le dita giunte davanti a sé. Gli occhi di Pippi erano lucidi e non si staccavano un solo minuto dalla contessa Aurora. Alla povera contessa le cose andavano sempre peggio. Proprio mentre passeggiava ignara per il giardino del castello, nel teatro si udì un urlo. Era Pippi. Aveva visto un uomo dall'aspetto losco dietro un albero. Anche la contessa Aurora doveva aver udito un fruscio perché disse con voce spaventata: «Chi si nasconde tra i cespugli?» «Lo so io!» esclamò Pippi con fervore. «È un tipaccio orribile con dei baffi neri. Fila a chiuderti a chiave nella legnaia, per l'amor del cielo!» Il direttore del teatro allora andò da Pippi e le disse di andarsene subito. «E lasciare la contessa Aurora sola con un brutto ceffo del genere? Allora non mi conosci», disse Pippi. Sul palcoscenico la rappresentazione continuava. Improvvisamente il losco figuro uscì correndo dai cespugli e si scagliò sulla contessa Aurora. «Ecco, è giunta la tua ora», sibilò tra i denti. «Questo lo vedremo», esclamò Pippi, e con un balzo fu sul palco, afferrò il furfante per la vita e lo lanciò nella sala del teatro. Piangeva ancora. «Come puoi fare una cosa simile?» singhiozzò. «Si può sapere che cos'hai contro la contessa? Ricordati che ha perso sia i bambini che il marito. È completamente sola!» Quindi Pippi raggiunse la contessa che, impotente, si era accasciata su una panchina. «Puoi venire ad abitare da me, a Villa Villa Colle, se vuoi», disse per consolarla. Pippi, piangendo rumorosamente, barcollò fuori dal teatro, seguita a ruota da Tommy e Annika e dal direttore del teatro che la minacciava con i pugni alzati. Le persone nella sala, a cui lo spettacolo era piaciuto, invece applaudirono. Una volta fuori, Pippi si soffiò il naso nel vestito e disse: «No, ora dobbiamo divertirci perché questa storia era troppo triste». «Il serraglio», propose Tommy. «Non siamo stati nel serraglio». E così ci andarono. Prima però si fermarono a una bancarella dove vendevano panini e Pippi comprò 6 panini per ciascuno e 3 gazzose. «Mi viene sempre una tal fame dopo che ho pianto», disse. Nel serraglio c'era tanto da vedere. Un elefante, 2 tigri in gabbia, diversi leoni marini che sapevano giocare a palla e una gran quantità di scimmie, una iena e 2 serpenti giganti. Pippi portò subito il signor Nilsson di fronte alla gabbia delle scimmie perché potesse salutare i suoi parenti. C'era anche un vecchio scimpanzé triste. «Su, signor Nilsson», disse Pippi, «saluta per Benino». «Io direi che questo è il cuginetto di 3° grado della zia paterna della zia materna del cugino di tuo nonno». Il signor Nilsson sollevò il suo cappello di paglia e salutò il più educatamente che poté, ma lo scimpanzé non si curò di rispondere al saluto. I 2 serpenti giganti stavano in una grande scatola. Ogni ora venivano tirati fuori da Fräulein Paula, la bella incantatrice di serpenti che li mostrava da un piccolo palco. I bambini ebbero fortuna perché stava giusto per iniziare l'esibizione. Annika aveva una gran paura dei serpenti e si tenne stretta al braccio di Pippi. Fräulein Paula ne sollevò uno, una bestia grande e spaventosa, e se lo mise intorno al collo proprio come un boa di struzzo. «È evidente che sia un boa», sussurrò Pippi a Tommy e Annika. «Chissà di che razza è l'altro». Si avvicinò alla scatola e prese il 2° serpente, che era anche più grande e spaventoso del primo. Pippi se lo mise intorno al collo, proprio come aveva fatto Fräulein Paula. Tutte le persone nel serraglio gridarono di terrore. Fräulein Paula gettò il suo serpente nella scatola e arrivò di corsa per cercare di salvare Pippi da morte certa. Il serpente di Pippi si spaventò e si arrabbiò per il baccano. Non riusciva a capire perché dovesse spenzolare intorno al collo di una ragazzina dai capelli rossi invece che da quello di Fräulein Paula, come sempre. Decise di dare alla ragazzina coi capelli rossi una lezione e contrasse il corpo in una morsa che avrebbe stritolato un bue. «Non provare a fare il furbo con me», lo avvertì Pippi. «Ho visto serpenti molto più grandi di te, sai, in Indocina». Si levò facilmente di dosso il serpente e lo ripose nella scatola. Tommy e Annika erano bianchi come cenci lavati. «Era un boa pure questo», disse Pippi riagganciando a reggicalze una delle due calze che le era scivolata giù. «Proprio come pensavo». Fräulein Paula sbraitò a lungo in una lingua straniera e tutte le persone nel serraglio tirarono un profondo sospiro di sollievo. Ma avevano sospirato troppo presto perché, a quanto pareva, questo era un giorno in cui poteva accadere di tutto. In seguito, nessuno seppe dire com'era andata. Le tigri erano state nutrite con grossi pezzi di carne e il domatore assicurò poi di aver richiuso la gabbia correttamente. Sta di fatto che un minuto dopo si udì un grido terrificante. «Tigre in fuga!» Era vero, la belva striata stava lì, rannicchiata fuori dal serraglio, pronta al balzo. La gente fuggiva in tutte le direzioni, ma una bambina era rimasta bloccata in un angolo proprio accanto alla tigre. «Ferma, non ti muovere!» le gridava la folla, sperando che la tigre l'avrebbe lasciata in pace se lei non si fosse mossa. «Che cosa possiamo fare?» diceva la gente torcendosi le mani. «Correte a chiamare la polizia!» suggerì qualcuno. «Chiamate i vigili del fuoco!» consigliò un altro. «Andate a chiamare Pippi Calzelunghe!» disse Pippi facendosi avanti. Si mise a sedere accovacciata a un paio di metri dalla tigre e la chiamò. «Micio, micio, micio!» La tigre emise un ruggito terribile, mostrando i denti affilati. Pippi alzò l'indice in segno di avvertimento. «Se tu mi mordi, ti mordo anch'io, stanne pur certa!» la avvertì. Allora la tigre fece un balzo verso di lei. «Ma che fai? Non sai stare agli scherzi!» disse Pippi facendola volare lontano. Con un ruggito rabbioso che fece gelare il sangue a tutti i presenti, la tigre si gettò su Pippi per la seconda volta. Si vedeva chiaramente che aveva intenzione di azzannarla alla gola. «Come vuoi», disse Pippi, «ma ricordati che sei stata tu a cominciare». Tenendo chiuse le fauci della tigre con una mano per impedirle di mordere, Pippi riportò la belva alla gabbia, tenendola dolcemente stretta in braccio, il tutto canterellando. «Avete visto il mio gattin, mio gattin, mio gattin?» La gente tirò un secondo sospiro di sollievo mentre la bambina, che era rimasta bloccata nell'angolo, corse dalla sua mamma e disse piangendo che non avrebbe mai più visitato un serraglio. La tigre aveva strappato tutto il bordo del vestito di Pippi, la quale, dopo aver dato un'occhiata ai brandelli che penzolavano, disse: «Qualcuno ha delle forbici?» Fräulein Paula ne aveva un paio, non era più arrabbiata con Pippi. «Prego, piccola bambina coraggiosa», le disse porgendole le forbici. E Pippi tagliò l'abito, facendolo finire un bel pezzo sopra il ginocchio. «Ecco fatto», disse compiaciuta. «Ora sono ancora più bella. Scollatura sia in alto che in basso. Non esiste qualcosa di così doppiamente bello». E si avviò con un incedere talmente elegante che le ginocchia sbattevano una contro l'altra a ogni passo. E mentre camminava mormorava: «Incantevole». Si potrebbe pensare che ora la fiera sarebbe tornata alla tranquillità, ma le fiere non sono mai tranquille, e fu subito chiaro che la gente aveva sospirato di sollievo troppo presto anche stavolta. Nella piccola piccola città c'era un attaccabrighe terribilmente forzuto. Tutti i bambini avevano paura di lui. A dire il vero, non solo i bambini, tutti lo temevano. Persino la polizia se ne stava volentieri alla larga quando Laban era sul piede di guerra. Non era pericoloso sempre, solo quando aveva bevuto birra. E il giorno della fiera, ovviamente, ne aveva bevuta un bel po'. Arrivò camminando per la via grande, gridando e ruggendo, e cominciò a farsi largo menando colpi tutto intorno con le sue terribili braccia. «Fuori dai piedi, pidocchi!» gridava. «Arriva Laban!» La gente si appiattiva spaventata contro i muri delle case e molti bambini piangevano terrorizzati. Della polizia neanche l'ombra. Ben presto Laban giunse in prossimità della dogana. Era orribile a vedersi, con i lunghi capelli neri che gli pendevano sulla fronte, il grosso naso rosso e un dente giallo che gli spuntava dalla bocca. Le persone radunate vicino alla dogana lo trovarono ancora più spaventoso della tigre. A una bancarella c'era un omino che vendeva salsicce. Laban andò da lui, picchiò il pugno sul banco e gridò: «Dammi una salsiccia, e subito!» Il vecchietto gli porse immediatamente una salsiccia. «Sono 25 centesimi», disse umile. «Vuoi anche i soldi?» ringhiò Laban. «Quando hai la fortuna di avere un cliente distinto come me? Un po' di buon senso, vecchio. Dammene un'altra!» L'omino disse che prima voleva essere pagato per quella che Laban aveva già mangiato. Allora Laban lo afferrò per le orecchie e lo scrollò gridando «Dammi un'altra salsiccia! Immediatamente!» L'uomo non osò far altro che obbedire, ma la gente che assisteva alla scena cominciò a mormorare parole di disapprovazione. Uno fu perfino così coraggioso da dire «Vergogna! Trattare così un povero vecchio!» Allora Laban si voltò e guardò la gente con gli occhi iniettati di sangue. «Qualcuno ha fiatato?» grugnì. A queste parole la folla cominciò ad avere paura e a volersene andare. «State fermi!» ruggì Laban. «Il primo che si muove gli spacco il cranio!» «State fermi, ho detto, perché ora Laban farà uno spettacolino!» Poi prese una bella manciata di salsicce e cominciò a lanciarle per aria come fosse un giocoliere. Tirava le salsicce verso l'alto e poi le riacchiappava al volo, in parte con la bocca e in parte con le mani, anche se molte cadevano a terra. Il povero omino delle salsicce quasi piangeva. A questo punto una piccola sagoma si staccò dalla massa. Pippi si fermò proprio davanti a Laban. «Di chi è questo bel bambino?» disse in tono gentile. «E che cosa dice la sua mamma quando butta la colazione da tutte le parti in questo modo?» Laban emise un ruggito spaventoso. «Non vi avevo forse detto di stare fermi?» gridò. «Sintonizzi sempre l'altoparlante in modo da farti sentire anche all'estero?» chiese Pippi. Laban alzò minaccioso il pugno e urlò. «Ragazzina, chiudi subito quella bocca o mi costringe a ridurti in poltiglia!» Pippi lo guardava interessata, le mani sui fianchi. «Com'è che facevi con le salsicce? Così?» Pippi lanciò Laban in alto per aria e ci giocò per un po' come fosse una palla. La gente esultava e l'omino delle salsicce applaudiva con le manine rugose e sorrideva. Quando Pippi ebbe finito, un terrorizzato Laban si guardava intorno con aria confusa seduto per terra. «Sarebbe l'ora che questo attaccabrighe se ne andasse a casa, secondo me», disse Pippi. Laban non ebbe niente in contrario. «Ma prima ci sono un bel po' di salsicce da pagare», disse Pippi. E allora Laban si alzò e pagò 18 salsicce, poi se ne andò senza una parola. Da quel giorno non fu mai più lo stesso. «Viva Pippi!» gridò la gente. «Urrà per Pippi!» gridarono Tommy e Annika. «Non abbiamo bisogno della polizia qui in città», disse uno, «finché in giro c'è Pippi Calzelunghe». «No, davvero», intervenne un altro. «Si occupa sia delle tigri che degli attaccabrighe». «Ma no, certo che ci vuole un poliziotto», disse Pippi. «Qualcuno dovrà pure assicurarsi che tutte le biciclette siano parcheggiate male nel modo giusto». «Oh, Pippi, sei davvero straordinaria», disse Annika mentre tornavano a casa dalla fiera. «Oh sì, incantevole», disse Pippi prendendo con le dita la gonna che le finiva a metà coscia. «Proprio incantevole». Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.